siamo. Ok. Hola, binario 23. Hola, è nessuno? Hola, binario 23. Hola, hola, binario 23. Hola, binario 23. Mi sono messo tutta la notte sotto l'aceto. Bene, bene, già serve quando bene. No, l'ho acceso a farlo funzionare un po'. Ce l'ho acceso dalle 4 o meno 4, una cosa così. È l'unico morto, sei tu adesso che è entrato a frequenza. Sono troppo indaffanato, Giulio, non ne ho tempo. E la bebe è una di chi ti intendi bene, è una di chi si è imballato. Sono molto assiduo, però diciamo che già l'accendo tutti i giorni, magari non è sempre che parlo, dipende dalla voglia, da secondo le giornate. Oggi invece diciamo che due chiacchiere potrei anche farle. Ma sai che sono al telefono, Giulio, ma... Va bene, buttalo via il telefono, buttalo dalla finestra. Marco! Marco, io ho comprato te anche questo smartphone. Claudio, sì, l'ascolto. Chi è quello? Chi è quello su canale 23? Attento Giampaolo. Avanti la portante, chi è? Aiù, favela, favela. È bello, favelli. Aiù, favela. Ce l'hai la lingua, favela. Tu vai a cuccia, te non ti voglio sentire. O parli l'italiano, niente arabo. Se parli l'italiano va bene, però gli arabi non mi piacciono. Vai a cuccia, vai a cuccia. Sammarì. Nemmeno con questo caldo ti rimini tu, cazzo. Oh, il coso l'ho portato in magazzino e adesso l'impianto è a posto. Ma stai litigato, cosa stai facendo? Sono ferriciato. No, non si può venire altro nulla, non gli faccio altro nulla adesso. Al fresco, a settembre a fargli qualcosa. Ah, già va bene, già va bene. Bisogna stare sempre al fresco adesso, capisci? È troppo caldo. Se hanno già abbassato un po' carico la temperatura, allora iniziamo a litigare, togliere i mucchi, gli ammortizzatori, tanto che anche la sorpresa piano a piano, un pezzare a buccia. Fai bene, piano piano, un paio vorrei ogni giorno essere felice. E infatti, però non adesso, adesso ho bisogno di fresco, non il suo gaggio a foglia. E via. E ieri a mare. Ma che abbiamo andato? Sono riuscito a rimanere a sera, fammi un giro. Ma gli ho buttato l'orogano appresso a fare un giro. Oh. E beh, cazzo, con questo caldo come fai tu? Troppo caldo facendo oggi, nemmeno a Piazza del Segno sono dovuto salire perché c'era troppo caldo, non ti resisto, capito? Si spompa tutto quanto, per cui mi manca il respiro quando è così al caldo, capito? Allora preferisco rimanere a casa, come oggi. No, ci sono salito e sono tutto il giorno a casa. Io non sono uscito per niente, non sono uscito, mi sono uscito per andare al tabacchino qua, per prendere una busta. E sono rientrato subito, ho visto che c'era quel venticello, poi mi casa l'ho portata a lui a fare un giro. Tra il salietta, un po' che dovrei che si tagliava. Ci ho climatizzato l'acceso anche. E ho visto che ogni tanto si fa un po' più di aria fresca, sta entrando. Cazzo, è poco piacere. Va. E ieri sera, stesso ieri, tutto il giorno a casa, no? C'erano 3 o 4 ieri, per fare solo questa ora, però non avevo voglia, non sono entrato nemmeno. Sono qua arrivato verso le 7:30, ho chiamato a Bacchiglio, non mi ha ripreso nessuno. E a Bacchiglio abbiamo sentito Fresco, che era in campagna. E con Marco, l'ha sentito anche Marco, ma 5 minuti dopo doveva fare cose per cui non abbiamo sentito più. Io sono arrivato a 7:30, ho acceso 8:15, ho fatto la chiamata, non mi ha ripreso nessuno, mi ha già rato. E certe volte io magari mi allontano, se viene gente, trovo la saccenza. Magari forse per quello non ti ho sentito, perché magari in quel momento non c'è. Però c'è pazzesco, Io quando mi alzo la sera, verso le 4, quindi accendo, e rimane fino alle 8, guarda. È pazzesco, magari certe volte mi allontano, magari in camera, magari non sento, però ritorno subito, guarda. Sono uscito per farmi un giro, perché sta manco a vista un po'. Un giro e poi ho trovato un punto dove c'era il fresco, sta giocando a vista. E ho lasciato giocando. È fatto bello, e poc'anzi c'era Luca, CMR, dopo è stato Giuseppe Tornado. Abbiamo fatto la chiacchieratina, però dopo mi stava allontanato. Anche loro hanno finito. Sì, vabbè. Va benissimo, va. Tanto, prima che non arrivi lo fresco, va. A regandarini. Ehi, che non fa più caldo. Davvero. A parte Cagliari, sta sempre diluviato tutti i giorni. E lui si è stata asciutta. Ma devi accenno che vicino pure mi già fatteva trovare tutta questa zona e coso lo stesso. E adesso acqua stasera, è in questa zona. Ma l'acqua mi sembra che è a Platamora. E beh, belli bei! Bravo mami, mami. Beh, meno male, no, non è mancato il respiro ancora anch'io. Grazie, io pensavo che era già morto e invece ancora vivo. Senti, Mara, non ne muori mai. Spero, grazie. E va male, faccio una mano in sinistra e chi dà, faccio qui. Veramente stavo parlando con Giulio che mi hanno chiamato al telefono e ho finito adesso. Bella me. Giulio, sé. Giulia ti ha aggiunto, battela tutte e due, beh, Tore, e devo dire sempre Giamelli, Tore! Se mi era qua, mi era Giamelli, perché se mi era Giamelli mi aveva avuto. Allora, l'ho attesa, c'era, erano le 5, era sempre attesa, poi ho fatto l'altro, mi ho sentito un po' di stranieri, un po' di autisti, Firenze, quelle zone lì, poi ho girato di nuovo sul 23, ha detto una cosa, è entrato Giulio. Cava di recco, grazie. Adesso me l'ho levato. E poi ha suonato il telefono, era il telefono, non dai un tesoro in femmine, non s'arrani mai, boh. E ha finito adesso di chiacchierarsi con me, e adesso ho risposto, e Giulio non c'è, si sarà spostato. Ok, riprendi tu Giovanni Maria, e anche io già piazza il segno, vera di Muria, piazza il segno, non fa zia oggi. Infatti no, oh, e come che fatto? Cazzo, si che si dica a casa di morire, no, no, sto senso proprio per il caldo, oh, no, no, no, e cazzo, ma ammazza a merda, per cui no, non ci siamo saliti, dai, oh, già che abbiamo ancora roba, però se mi era mancato roba, ve l'ha passato ugualmente, però se era stato visto, ma chissà dopo le robe c'è troppo caldo, per cui non ce la faccio a resistere. Allora, oggi abbiamo fatto i bravi, tutta la via a casa, No, a me non mi piace, ma giù tutto cosa, no, non ci sono salito, ieri mi ho fatto un giretto a parte in sera, e verso le 8 sono rientrato da un orario così, e niente, c'era caldo anche ieri, veniva di morire, veniva, no, non fa. Ma si pare in questo chiaro caldo, grazie. Ah, bella, vai, no. Adesso come fai, ma che magazzino, fare un gas, puoi immaginare? Oh, no, se non fa fresco non esco. È chiaro che se manca qualche cosa, è chiaro che sono costretto a uscire, però magari esco e scaro che mi zio al goffo, ma oppure a pigliarmi un pane, la stessa razza, ma se lo lontano, no. Troppo caldo a fede, per cui meglio è stato fresco, ma chi? Una bella voce, ecco, una bella voce, sì che fa sentire male, mi governa sta in casa, no? Già lo credo, no, mi voglio andare a dice, se domani, arrivare a dice, se non va a giocare domani a sera mi andando a mare, un paio di ore, ma siccome c'è troppo caldo io non ci sono andato. La vita paletta vai, io non vado, è troppo caldo, mamma, non giocare che mi vada un piccione. L'ho fatto salvagente quello con l'occhetta e l'ho mandato al mare. Hai detto, l'ha comprato di salvagente quello con l'occhetto. Se la mette sotto il braccio e si fa il bagno, hai visto tu, eh? Cosa che non fai tu, lo fa Graziano. È dubbo, piace la salvagente. Andi. No, aspetta che io sono venuta a Edda che non sa nulla, quando le rimparenne si parava a piomba per giù buco. La tirava i mattini arrivati e le diceva, muo vi piede che tornavo indietro. Fa giù tre passi si parava sotteva. E la dice, la piglia ti bisogna salvagenti con l'occhetta. La mano si farà più, rimane a galla. Senza occhietta si farà più, a sotto. Sì, certo. Ma se ne può più di chi su, no? Boh, a nome che deve dare la salvagente. Se ne fai la vergogna. E tu la devi vedere con l'occhietta, pedalendo, camminando la sabbia, lo e le pelle mie, non attanno, sto sì, e a stare il bene, a dalla sabbia. Aspetta, Gian Maria, non lo so più. Allora, ci inteso che vi sono belli di cose che si date nella corsa elettrica, cosa di oro si chiama, meluse. Sai che il continente si avvicina, mi pare che era il continente, avevano mamma niente. 7 anni, la punta una medusa, proprio una di chi ti blocchi in più potenti. Ed è morta, la morire in Thailandia. Ah no, in Thailandia era andata in ferie lì con la madre, anche la mamma era thailandese. E si ha posto lì bene sa vicina, poverina. Ma in Thailandia, ma in Venezuela. Ah, in Venezuela, vabbè. Cazzo, non sappiamo di buttarsi la mamma. Ah, basta con la pezzetti, a cosa? A Bologna. Sei parato un ponte sulla tangenziale, a stare delle poche esplosioni, cazzo, boh, chi sta vedendo qui? Capito, è ciò. Sì, sono andato a guardare il televisore a vedere, ma io non è... Come l'ha detto, canale 5? No, canale 1. Al primo canale. E c'era il ponte che è crollato avanti ieri. Forse sarà così allora, cazzo, sulla tangenziale, a Bologna. Esplosione a Bologna, crolla un ponte tangenziale. Ma pure un camion è esploso, a canale 5, alla 1 lo stava facendo vedere. Non mi ricordo dove però incidente, si sono sbattuti ed è esploso questo camion. Sarà cadere da causa botte, boh. No, l'ho sentito a pranzo, No, quindi adesso stavamo guardando, infatti sta dicendo cose, però non l'ho capito. E questa è a Bologna, È in diretta comunque, sì. È in diretta, ma lui è quello di Bologna. Può darci pure sia quel cambio che si sia esploso lì in quel momento. Questa è una cazzata di macchine da tutto. Tutto bloccato. No, non mi ricordo che posto avete, comunque qua il continente. Si vede perché era in diretta tutto rubò con una via madaccia alta e un macello proprio, però ha detto un incidente, qualche camion sicuramente che ha causato botte come che si saranno i cuti è esploso, forse è quello lì dove stai dicendo perché la fiammata la fiammata alta, ma alta un bel e la parte si è bloccato vedi la fiammata perché era in diretta altissima ma un bel alta, solo non ha ricompreso nulla, aveva un macello vedi lavorati con un saluto Betto vista dai sento il televisore da là a qua mi sa sta un vicino quindi ho spento e andava e andava da qui fa di Graziano magari chi viene nei camminelli con un gaggio che beh è tutto avrà sbagliato casa in macchina sicuramente sei cittadinata un rimorchio magari gli dirà l'autobotte avrà innescato le scintille come se si sarà le cuccio ed è brincato in aria, la buco, un calcio che fa, figurate che non brinca in aria, oh yeah! Chi vive più caldo di noi, quando lì stanno tutti in via e poi avanti, specialmente che si deve imbarcare e devi arrivare a fare i buchi. Già tutto un macello. Ieri notte mi stavo guardando un documentario, prima era di Adolfo Hitler, che ha perso la guerra e tutto. Da poi è finito questo di Adolfo Hitler, fatto vedere la bomba di Hiroshima, la prima bomba atomica. Ha fatto vedere Hiroshima, la gente, la città è fusata, andando, torrendo, travagliente. All'esplosione, l'onda d'urto, come si è aperta l'esplosione, l'onda d'urto. Via tutto e sono rimaste impresse in certi muri e le persone, però polverizzate, le sa come delle persone, anche nelle strade, ma davanti tu, guarda niente in mucca, dovevi vedere, perché erano filmati quando hanno buttato la bomba atomica, la prima bomba atomica, filmati storici, vecchissimi. Vedere quei filmati, bastava lisa, muri a tutto mi lo polverizzava per 200 chilometri quadrati, ha distrutto tutto quello che c'era, infatti, per 200 chilometri quadrati. Qualcheduna che si è salvato, che qualcheduno è vivo ancora, perché era magari all'interno di qualche palazzo, giù nei sotterranei, travaglienti, capita anche una che lavorava in ospedale, che era il centro analisi, questa qua lavorava sotto nei piani dei sotterranei per fare le analisi, no? Analizzare i prelievi che facevano lì all'ospedale. Però è arrivata anche lì l'onda, l'ha sbattuta come quasi bigliacce un pezzo di una palla, rimbalzata dentro nel sotterraneo. Da muro a muro, tutta piena di vetri conficcati nella persona. Aveva, però è riuscita a salvarsi, è ancora viva quella vecchia, ma è ancora viva. Poche niente ne sono rimasti, si sono salvati. Poi un altro hanno fatto vedere che si è salvato. Invece le scuole, perché c'erano le scuole di addestramento dei militari lì, e gli si erano tutti in carriera, i rubiazzali, gli allenamenti, no, addestrandoli per militari, tutti polverizzati là, dove si dice? Caro Greg, era la bomba turca, ogni tanto lo danno, caro Greg, dove è passata l'onda, Cattaghini, distruggeva tutto, bruciava, polverizzava tutto, sì. E poi c'è rimasta, come si chiama, l'aria infetta, e che erano tutti malati, i soldati di Padre in tempo riuscivano a salvare, fino a morire lì in TV. Mi c'è anche su internet. È esploso! È esploso il tir, la cisterna! E ne è crollato un bururu monte. 11 poliziotti feriti e 2 pure. No, 11 carabinieri e 2 poliziotti. 11 carabinieri feriti e 2 poliziotti, pizzava peso. Sono 2 morti e 67 feriti, dai. Sono 2 morti e 67 feriti. Forse della cottura che una lo rimorca all'autocisterna. Se ed è esploso, hanno stato le centille, come ti si esecuti, si dice che era un carico di benzina, gli ero credo che brinca in aria, è una bomba viaggiante, l'autobotti. E adesso è il periodo estivo, quando io lavoravo all'Agipi, aggiornavia di infundirli sulla bomba a tutti i gatti pure, prima di chi anda in consegna. Si vede che i gatti si ferma, Si vede che era qualche cisterna, perché la fiammata era un bel manna, un bel lago, un beata pure. Sì, certo che la fiammata. Guarda che io quando lavoravo all'Agip, anche da Sessoni alla Carpetro, gli autobotti in estate, prima di uscire in consegna, va via la manichetta a pressione, li infondia da tutto Lugano, tutto, proprio apposta per il caldo, capito? Infatti, e poi, fatto è questo, che qua quelli che trasportano questi prodotti non è che lo riempiano fino a bocca, si lasciano un bel poco prima di essere pieno, capito? Sono pericolosi. No, guarda, anche se tu chiudi il bocca a porta, il portellone grande quando fa caricato, che non l'ho mai fatto pieno a bocca, non lo puoi fare. Ci sono le cisterne, c'è il contalitri e ci sono le cisterne da 1000 litri, prima cisterna, seconda cisterna, terza cisterna, ci sono i zippari, no, sono chiuse una dall'altra. E metti 1000 litri di quella, 2000 litri, poi c'è la cisterna con il serbatoio, magari da 10.000 litri, e sono due da 2000 litri, due cisterne all'interno della cisterna grande, no? 2000 e 2000, poi le guida da 4000, poi c'è quella siamo arrivati 4 e 4, 8, poi c'è quella da 2000, da 6 da 10.000 litri, oppure c'è 1000 e 1000, capito? E poi fai le consegne, dai 2000, dai 2000, dai 2000, dai 4000, capito? E così via. Anche se tu chiudi il portellone, tu quando li vedi, guarda che le esalazioni, se tu guardi bene, adesso si vede a vista d'occhio, tu guarda che no, che botte quando la vedi, e fissati dove c'è il portellone e vedi come quando c'è un bel caldo, no, non vedi quelle specie di onde dal calore, e vedi le esalazioni. Giomari, se ce la faccio rientro dopo, che è venuta gente, c'ho gente, c'ho. Ok, ci sentiamo dopo. D'accordo, attendi pure, va bene. Va bene, Tore, cudici di tutti in carriera, ciao! Sono trasportatori molto pericolosi quelli di ieri, però e quelli che hanno non so a quanto possono camminare quelli di ieri. Ah vai, se sempre più di 60 non potevi andare, c'è un limite di velocità, sia che sei carico e sia che sei carica, chi pure sei carico, se che ci si chiude, esplode lo stesso, perché all'interno ci sono sempre le esalazioni, capisci? È una bomba viaggiante. Infatti, posso immaginare. Ma infatti lì evidentemente mi pare che un furgone che era rovesciato, se non è tutto il furgone, oppure se c'è tutto l'autobot, è canizzato, non ha più preso via, stiamo fare segni, e beh, questi dipende, però non ha più preso. E poi a guidare l'autobot, non è come che tu stai guidando un camion cazzonato, è tutto diverso la questione. A chi impara da usare quanto ti spinge, perché fa da culla, no, il liquido all'interno del serbatoio dell'autobot e ti cuci i colpi, no, compreso. Dunque tu riparati quando travagliavo da all'Agipe, alla Carpetrol, da Trimpeggio, dovevi andare nelle discese a freno motore e piano piano con un freno a piedi, sempre rallenteni, non li dovevi fare mai prendere i giri. A chi hai finta che ti cuci, dici boh, facci pulvore strada. E nella salita era la stessa cosa, nella salita ti sembrava che ti tirava indietro, capito? Ti tira direi in dareggio, un colpo che pulia. Ma posso immaginare, lo vedi. Uno che conosceva, lì a fare dei saccaggi, c'era chi di fuori in strada, con un ammetto con delle giustizie, infatti mancherà anche a chi si manca. L'unica di Santa Maria di Silla. Non me lo ricordo. Se no nelle curve deve andare piano piano a chi ti fa la culla, ma teci, e tende a cuditizi fuori carreggiata, compreso, a chi è liquido, no, si muovi, e ti batti così un colpo, compreso. per fare il piano di curvi, una cosa di luce a mezza lo specchietto e vedevi lo rimorchio tru ti invia a 300 in terra i scenni dimmi compreso e allora rallentava ancora di più e faravamo ancora più piano e la curva la faceva più piano compreso. Non ti conoscete niente chi si è scalmentato e si è uscito in Borislava. Ma ti ho visto uno in la parata di Bonor, vai, di Bonor. Il busto era attaccato al Marubio e là che era in mezzo alla carriera, là anche con lo culo, con lo bombo del culo. Ma come ti sei tutto? L'ha troncato in due, ne è uscito sportello e cantuvela e sedile. Ed è rimasta grancata allo sport a Romanubio, però è morto. Sono certo che sei brutto, sono certo che sei veramente, se non sai camminare, ci vuole pratica, a conoscere tutti i movimenti di questi spostamenti della merce che sei addosso, sopra, capito? Ma è così. Da un grezzo di mura che lo c'è a testa e purtroppo dice ma chi ce lo fa seguire? Chi ce lo fa seguire? C'è qualche qualcuno, forse il furgone si fuma oppure un edice che sta al furgone, ma c'è un pregiumento. Bisogna vedere come ti è successo, forse burro che magari vi ha fatta la mano e dice con un rimorchio. Sei uscito in nata al furgone, cosa ne sa? Non si sa. Quando c'è mezzo di genere devi andare piano, ma piano, solo metti, bevi là, cammina un pochettino di più, io camminavo un pochettino di più, non più di quel tanto, perché c'è il tanto di tachigrafo e tutto. Però io gli arribuniavo un altro e non me lo segnava, più di quel tanto. Mi fidavo solo in pianura e in rettilineo e in luogo dove ci vedevo. Io ero sicuro che non mi dice animati né dalla destra né dalla sinistra. Se no andate a sempre piano. Con la bombola è lo stesso, quando lavorava la fiamma sarda. La notte si goda, più di quel limite non camminavo. A buffonendosi, se brinchinavi algun camion del genere, sia carico di benzina o di bombole, ma con vicina gatta. Cazzo, l'esplosione, la metà roba, e anche le bombole, non si cazzo delicato, ma se per carità è cazzo. Cazzo, è seria, se una lampa di struga va a via, cazzo, una parte all'altra, ma che è una strada, è un ponte la lampada. L'esplosione, l'onda d'urto, calcola anche, già lo credo, e mi chiede come ti chiede una bomba, mi so bombe su. Allora, dai le manco della bomba di Hiroshima, cazzo, chi se gli era forte, non si trattava, pomperizzava tutto. Ci mancanti, cazzo, ti immagini, o è stato un delinquente, cazzo, marocchino, cos'è? Che era per piazzare la bomba, era piazzare, si voleva distruggere tutta l'America, calera che si usa gli animali. Millaire, non l'abbiamo imbrigliato, l'abbiamo morto, pure a stata musea ne morto. Ah, chi si bisogna ammazzare subito, cazzo. Per carità, cazzo. Ma vediamo un po' se c'è qualche altro che vuole entrare avanti. Oh, Giuseppe attaccato. Allora era Giuseppe tornato, vero? Però era il PMR. No, non è acceso il PMR. Lo voglio sentire a me di che va bene là, essendo un po' con la 26. No, c'era Giulio, però poi ha squillato il telefono per la mezz'oretta. Ma tratti giù mezz'ora, buono, al telefono. E deve essere se stufato, e ha chiuso. Si chiama e non risponde, è chiaro che a questo punto non venisce un'estate. aperta, già ha visto buttare. Già sono aggattata, mamma. Oh no, forse c'è il cucco, ragazzi, il lungo del cucco. Mi va, va, direttamente lo so bene. Su Maria Giuseppe, papà, papà. Ehi, papà, uia. Me l'ha mandato su internet, c'è anche dal telefonino, da dove la fai? Ma esattamente, infatti sei tutto a questo servizio proprio dell'autobot, sei tutto il furgone, infatti, davvero, tasta, insomma, per la cattacca di ricami, la zanantica. Poi per l'autobot, allora l'autobot ha tirato di più cucca, su Maria, cazzo. Ehi, boh, chissà quante cavolo successo, se c'è a venire, no, così fa. No, vediamo qua, forse qua. Ma su WhatsApp me l'hai mandato? Ah, non me l'hai inviato. Ah, non l'hai inviato. Ehi, vabbè. Ehi, già c'erano delle giornate, stanno... Oddio, chi sta sul cambio pieno di pomazzi? Lui sa di farci vedere, va. No, chi c'è da i marocchini che andano a travagliare nei campi di pomodori, senza patente, senza assicurazione, senza nulla. E da rientrare nel gruppo burgone, chi ce lo all'aggiunta rimane. E ci sono i tiburi strada, e due sono gravi, e da in quattro. E da in carri che si bumate, tutti i bumati gli frabinati in terra. Ma come si cavolo fai giù? Adà, un furgone che si è migrato senza patente, mi pare che non è senza patente, senza documenti. E gli dà un ferro vecchio di furgone senza assicurazione, senza bullo, ma buffonegni sì. E poi sfruttati pure. Mi pare di dargli 25 euro da lì, fa 14 giorni di travaglio, abbiamo fatto. Purtroppo ci sono anche quelle persone che la approfittano dei taglietti, che sono state in manna, che hanno tortori, lupori e più, che hanno fatto i giorni, che hanno fatto la vita, poveretti. Tori, quasi anni, 12-14 ore, tutta la via anche a Bassola, con le buate, non hai compreso. Mangiare un panino è sempre travaglielli, ma lo se non si mangia due bumatti. E vai che bumatta, li raccogli e li recupera o no? Aspetta un attimo che lo sto guardando con l'incidente, mi c'è l'autocisterna, aspetta. E vai, va per la bubicità. Mi abbaidami, in diretta è l'autocisterna. C'è tutto un rimorchio che va via da Nazi ed esploso. Allora ci va via, ma su campo. Ma si spinge indietro. C'è posta, c'è già lo grigio. Mi ha dovuto che stanno a posto. Ah, beh, sono lo zio. Vai, giù, già lo credo. Chi si vede va a questo ribelli, chi si è morto? Ah, l'autobot che c'è tutto, alla tabacca, ma qui? Allo rimorchio, ha una innata la fugamia, sei scito. Era nel cammino, nel rettilineo, un camion, l'autobot è dietro. Mi abbaglia chi sta mai, una coincidenza, roba, ma... Abbaglia chi sta facendo giusto la vita da veri macchini. Mi lumi? Mi la curva. Mi una macchina, vai giù, figlia di me. Per carità, e poi io tratto qua, è un vecchio che ha finito dalla macchina all'altra, si deve partire a distanza, e questi ragazzi sono la ripresa. E allora, le coppe, si fa questo, si fuori. Certo, via. Mia, va, faccio vedere, in una strada secondaria, si fu blattiamo ora. Una palla meccanica, cammina in attitudine, cammina, ne ci dà l'improvviso, una macchina e si entra da 30 la palla meccanica dentro. Per carità, ui, ui. Valeva se giorna lì, giorna lì, giorna lì, scatta. Lei a Bahia va, ha fatto vedere un carro a attrezzo, una moto va via. No, e cosa va via? Mi gli sta fumando, a Bahia lì ha tagliato la strada, ha coinvolto quattro macchine, va a fare io, su, a Bahia. Si sa niente in mappe, si crede in pista, si crede. Aspettiamo, allora se si ruba i denti. Ma non hai visto sto che ho aperto? Ci sono 12 morti a Foggia di emigranti e un'autobotte carica di GPL che si è scontrata con una bisarca, un'esplosione, ha fatto 84 feriti e 3 morti. Quello lì, Flavia, l'ho vista adesso su internet. L'hai visto? Se cuccio l'autobotte a dare dai due rimorchi. Chiaro credo è esploso. Roba amatti qua. Allucinante, no? Invece la strage di Cappaccio ha messo la strada in due, ne fa Drubonti. Una bomba, distrutto quanto c'è, 84 feriti ci sono, forse 3 morti. Ciao Giovanni, buonasera. Dai, ci sentiamo dopo se ci siete. Riprendi Giovanni. Ok qua. Ma tutta zona lì, zona lì, cazzo. Zona lì, che cose. Ma sto attenti, corre il troppo che le cose sono... Per carità. Cosa è successo? Abbastanza interessante. Fammi una voce, sta andando, ci sentiamo dopo. Chi è l'altro? Marco, tu sì? Scusate, ho acceso in questo istante, ho sentito che è successo, non so quanti feriti e morti. Invece di guardare Topolino, guarda il telegiornale ogni tanto. Un'autobotte carica di GPL si è sbattuta con una bisarca carica di macchine. Ha esploso dentro città. Dentro città, nel ponte lì a Bologna. Praticamente una circonvallazione ha distrutto il ponte, praticamente peggio la strage di Cappaccio. Sono 84 feriti, 3 morti e poi un altro furgone carico di braccianti, carico di bumata, si occupi con un camion, 12 morti. Vamos, siamo andati bene, agosto sta iniziando benissimo. Dai, ci sentiamo dopo. Ok, sempre belle notizie ci sono. Buonasera a tutti, dai. Buonasera Marco, per entrare. Notizie che non fanno piacere veramente. Troppo brutte per cui mai si sentirà in sicurezza. Però è sempre la colpa della persona umana. Sì. La disattenzione, non si rispetta i limiti di velocità, la distanza eccetera eccetera, ecco quello che succede. E da voi si lamentano. Eia. Ma io mi ricordo che una volta ero, adesso non ti so dire esattamente, stavo facendo quella circonvallazione intorno a Sassari, no, dovevo prendere un bivio a sinistra, no a destra per entrare a Sassari, c'era un camionista che era proprio a 3 metri da me, a 3 metri attaccato, e io me lo sono visto proprio dallo specchietto addosso, è bello che ho dovuto un po' come rallentare per girare al bivio, e quello stromazzando, capito? Adesso che aveva fretta. Purtroppo certi sono molto indisciplinati, dai. La distanza di sicurezza vuole rispettata comunque. Metti che io debba frenare perché c'è una persona stesa in strada, c'è una mucca, cosa ne so, un cane, un bambino, anche se fuori città. E quello mi avrebbe ammazzato, mi avrebbe disintegrato perché era a 3 metri da me, lo sai. E, insomma, non eravamo nemmeno fermi, eravamo già oltre 50 orari. Mantenere la distanza giusta, c'è poco da fare, è regolare anche la velocità, in modo che anche se fai qualche cosa in più, hai la possibilità di bloccarti, invece no, se ne fregano, fanno e boh, così è grazie. Ehi, ciao Marco, ho sentito, aspetta che entro in ufficio, mi prendo subito, 2 minuti, Marco riprenditi. C'ho un po' di naso chiuso, mi fa la voce nasale più del dovuto. Oggi sono andato a fare i controlli di rito, a controllare il sodio, a controllare la tiroide e tutte quelle cose post-operatorie, no? Quegli ormoni che mancano. Poi se necessario mi correggono la terapia o la diminuiscono anche, se non è più necessaria si può diminuire, però dice che il corpo si stabilizzerà fra altri 3 mesi, capito? Perché anche a 1 mese dall'operazione ci può essere un edema, capito, in quella zona, e quindi poi si vedrà. Ok. Caspita, sì, c'ho il naso chiuso, devo fare qualcosa comunque, devo mettermi un po' di rinatina, dai, se no non riesco nemmeno a parlare. Fai qualcosa, ed è brutto, Anche a me qualche volta mi capita, la mattina, spesso è 3 mesi o 4, a quell'ora, se mi chiude mi dà fastidio a respirare, una parte, sempre la parte sinistra, e a pensare sono stato operato a deviazione circolazale molti anni fa, adesso invece si è ritornato a, si sta ricoprendo ancora, e ho risultato di fatto perfetto. Ha una parte sinistra, respiro di meno e allora tocca rispirare la bocca aperta, si può immaginare, oppure me ne alzo e respiro aria fresca, oppure mi sciacquo con l'acqua e riesco a strapparlo, capito? Ed è brutto, Ah, ecco, io per esempio ho il setto nasale deviato, c'è la narice che soffre di più, mi pare che col sinistro respiro meglio con la narice sinistra, con la destra un po' meno bene, capito? Diciamo che il naso un po' me l'hanno raddrizzato appena dopo l'operazione, no? Dopo aver messo quelle piastrine, però la deviazione del setto c'è sempre, lì devi andare dal chirurgo plastico a farla correggere, ma non ho nessuna intenzione di andare, me lo tengo così, non mi faccio toccare più, salvo che non sia proprio necessario per la sopravvivenza. È brutto, brutto. Io ero sempre a mal di testa, sempre perché respiravo male, e sono andato lì all'IVAM una volta, ma io parlo di 50 anni fa e più, e ci ho fatto controllare, ma non ho trovato che era chiuso, si è formato quest'osso e mi chiudeva il passaggio e non respiravo bene. Infatti mi hanno fatto un foglio subito e mi hanno operato, allora mi hanno operato a me lì dietro i giardini alla Pedreatica, lì c'era lì allora erano quelli che facevano le operazioni dietro ai giardini della Pedreatica, e mi hanno operato per tutti e due nasi, a tutti e due buchi, avevo un lavamano dei gas imbottiti fino a dentro, ma sono stati più di 20 giorni e respiravo con la bocca, è sempre a mal di testa e con la febbre, certo. Però dopo andavo bene e adesso sta iniziando di nuovo a chiudersi, capito? Sai cos'è anche? Che siccome dopo l'operazione, no, le narici sono un po' infiammate anche, no? Ancora. C'è produzione di mucco, però con questo caldo il mucco si solidifica e sembra peggio del cemento. Io lo tolgo piano piano con un cotton fioc, mi riesco a toglierlo, però si asciuga molto per il caldo, capito? E dopodiché faccio gli sciacqui con l'acqua, come si chiama? Con la soluzione fisiologica, capito? con una siringa sterile lo spruzzo dentro le narici in modo da pulire, e ne sta uscendo di roba, eh beh, lo credo bene, perché forma lì diventa dura, è chiaro che non lo inizia a respirare, ma la cosa è tutto, lo so. Vabbè, io rimanevo sempre a magistessa, magistessa più a rotta di collo, però da quando mi avevano operato poi stavo sempre bene, tranquillo, però adesso sta iniziando di nuovo a chiudersi, capito? Però non lo so che più, no? C'ho così di frugelli, io, se vuoi così di come, faccio lunga longa, un viso minore, e c'ho così di frugelli. Allora mi dice mia moglie, ma faccia del polpetto, sì, non ti basta ancora, che si può immaginare? Ma stavo cercando di fare, ho fatto l'apparato in un certo modo, ma non riesco, perché viene proiettata l'ombra sull'apparato, senza flash e non viene, devo trovare una posizione migliore. Ma apertola! No, al frontalino, c'è l'ombra che cade, porca miseria, e un po' lo peggiora. Già è venuto, ma si vede questa ombra brutta, vabbè, non fa niente, già ne ho tante di foto fatte. Ogni tanto si scopre qualcosa con questo. Che cosa c'ha questo rosmetro? Ma questo frequenzimetro sta andando 48, 49, 50. Secondo me sta impazzendo, Ok, partito. Lascia vedere. Vabbè, dai, meglio non toccare nulla, sennò qua è peggio. E stamattina, caspita, dopo abbiamo fatto varie cose, con mia zia siamo andati da Brico Center non esiste più, siamo andati da Ocean, siamo andati da Troni a ritirare un cellularino a tasti della Nokia, perché ti spiego, quello smartphone che avevo io aveva due sim, no, mettevo la sim proprio col numero che hanno i CP e poi la sim per navigare, no, siccome mi si è rotto lo smartphone, mi è rimasto quello che ha una sola sim e giustamente posso mettere solo quella per navigare, ma il numero che avevano i CP su cui si basava WhatsApp non c'è più. E quindi quel numero lì, quella scheda, l'ho messo in un telefonino a tasti, come quelli di una volta. Ah, ho capito. E io pure ce l'avevo scelto quel numero. Sì. Poi lo so se non adesso se lo do male, fatti bene. Comunque guarda che uno smartphone, quando si compra uno smartphone che abbia il dual sim è una grande cosa, perché puoi mettere il numero principale solo per telefonare, per dire, no, e poi l'altro numero sia per navigare sia per telefonare. Infatti quando lo cambierò fra 6 mesi, dopo Natale, prenderò uno smartphone che sia dual sim. Infatti so bene così, adesso sono riuscito un po' ho messo WhatsApp pure su quest'altro numero che i CB non hanno, però piano piano lo sto dando ai diretti interessati, capito? Per adesso ce l'hanno in fare 3 o 4 quel numero. C'è l'Antonello Pompone, Antonio Di Ossi, mi pare Claudio e chi altri, A me quando ho cambiato il telefonino, l'anno scorso, mi hanno regalato anche il telefonino e mi sono sparito un bel di numeri, e ancora me ne mancano. Ancora a uno a uno quando non riesco a trovarli me ne metto, capito? Perché da un apparecchio all'altro spariscono i numeri, capito? Sai perché? È successo anche a me. Col nuovo telefono, con l'altro smartphone, con la nuova sim, non avevo più i numeri di nessuno. Questo perché? Perché i numeri erano sulla sim, sul numero vecchio praticamente. invece vanno trasferiti al telefono, in modo che anche quando cambi la scheda nel telefono ci sono tutti i numeri che ti interessano, capito? È una cosa che non ho fatto prima, non ci ho pensato, vedi. Comunque vabbè, li ho ricopiati dal telefonino a tasti, li ho ricopiati nel telefonino, nello smartphone grande, dai. Ma è facile, ma io certe volte, non lo so, io non ci riesco a mettermi il numero, perché se tu mi dai il numero io non riesco a mettermelo, non ancora so a entrare in capo a fare, a mettermi il numero, ancora so che riuscire a farmi di più, già che non mi sono mai interessato, veramente, però non ci riesco ancora. Ma sullo smartphone o telefonino a tasti? No, sulla smartphone. Ehi, anche mamma non è pratica. Pensa che mamma non sa leggere un messaggio. Se arriva un messaggio al telefonino a tasti, vecchio, non lo sa leggere il messaggio, non sa annullare le chiamate perse, capito? Non è molto tecnologica mamma, capito? Ha fatto studi più classici e per quelle cose proprio negata. Io invece che studiavo ben poco, sono più per le cose elettroniche, queste cose, vabbè. Fino a poco tempo fa, per esempio, non riuscivo a togliere tutte le cose che mi, con i miei figli, che stanno sempre mandando fotografie, che l'avevo sempre pieno, cioè, e non riuscivo mai a sapere come si faceva a cancellarli. E allora dicevo a mia nipotina, che abita qua, nello stesso Canerottolo, e mi cancellava sempre lì. Me l'ha fatto vedere tante volte e non riuscivo nemmeno, mi mette il capo. Adesso però male mi è entrato bene il zucca e riesco a togliere, a cancellarli tutti, capisci? Si può immaginare. Certo. Ma era pieno, se non finiva mai quella settantina più, mezz'ora e più grazie a cancellare di Marco. Beh, in ufficio ho fatto tutto. No, stavo cercando, c'ho una tartarugina piccolina, quanto è il pugno, più piccolina. E voi a camminare, perché c'ho dentro una vaschetta con la terra, la lattuga. La dice, c'era bonga a camminare, l'ho messa nel terrazzo. Ho messo il separe per non uscirci nelle camere, dalla porta di cameretta, sennò la bevuta tartarugina sta. Svanita! Adesso ho spostato il copri, lavatrice, quel tessuto che c'è, lo alzo, levate, era imboscata di viso, basta di buttare il rugo giù, l'ho messo a camminare un po', che pure a camminarmi. Beh, ogni tanto deve sgranchire anche lì le gambe, no? Ma l'ompia, se è acquata, per dietro me l'è immaginata, vai, se non pongo cose in ovi. Sì, a rumore che sta questa macchia mi fa sciffurare già, e invece si è ammacciata dietro la lavatrice, non ci passa sotto perché i piedini glielo ho abbassati un bel alla lavatrice, sennò quando fa la centrifuga cammina questa lavatrice, allora l'ho tutta abbassata e dunque sotto non ci passa, mi pare al strano. Ed era imboscata dietro col copri lavatrice che c'è, là, un tessuto o con le cerniere a più che si mette per tappare le lavatrici. Ed era nell'angolino ferma acquata. Invece io avevo avuto una tartarugina d'acqua. E poi era saltata dal terrazzino, dal balcone, no, perché era di quei balconi che hanno, diciamo, il bordo in ferro, no, tutto ferro battuto, non ferro battuto, ferro. Insomma, c'era lo spazio per saltare e non l'abbiamo più trovata, deve essere morta in strada. Ma era di quelle di acqua, amico, quelle che compri al negozio di animali. C'era proprio una piccolina, l'ho fatta grande, quanto è la mano aperta, forse anche più grande. Ma basta stava a occupare la gamba, ripeto, perché mangiava la gamba, gli metteva il gambero intero, in 5 minuti si lo sbranava. Marina era, ma non so quanto era bella, tutta colorata. E poi l'ho regalata a una ragazza, gli ho detto, se la puoi te la regalo. Sì, se me la regala, e se porca di sì. Abbigliare gamba e apposta paeta. E gli ha dato, riprendete un po' che vado a mangiare una cosa veloce. E gli ha fatto, vai tranquillo. Abbatti già mano. Ehi. Va. Caldo c'è, grazie. Cazzo, però male, già perso, va fatto, vabbè fare a calcio roba a te. No, è tutto abbesso che ci regni l'arietta e no. C'ho anche la ventola qui, cucina, però non è acceso. Sta tirando quell'arietta, perché ha aperto in camera da letto, in salone, di quell'aria, col terrazzo passa, c'è la tenda solare abbassata. E la ringhiera è divino per rimanere qui per un calcio di muri, però sta tirando quell'arietta. Già sta bene, la salute che sta già un bel male, un algarone, mi ha acceso anche la pompa di calore, ha detto ma abbi la foto, io a tremare il gas, ha disarrato, non va con me che ha acceso la pompa di calore, e io ci sta già bene. La pompa non si può sempre, è giusta sì, però, è uno o l'altra. Sì, dopo pranzo mi sono coricato e l'ho acceso in questa cameretta. Sì. Alle 3:30 quasi 4:15 l'ho spenta e così che c'è di avere infatti stai tutto per un caso un casino avanza che gli ho aperto la tapparella però c'ho la vento accesa però sta entrando intanto un colpo di aria fredda adesso apro la finestra delle camere mia vediamo un po' se circola l'aria va, aspetta un attimino ehi apri già circoleggia l'aria no. Che strano mi ha dato dai numeri questa cosa mi era se cacca incendio cos'è Marco? Ogni tanto il frequenzimetro, ogni tanto un po' quando lo lasci, no, tra un numero e l'altro, sai come fa, avanti e indietro, 90, 90, 90, 90. Rugaggio, è caldo. No, non per quello, è freddo anzi, però quando sei, cioè alla fine questo c'ha solo il, non il kilohertz, i 100 hertz, no, quindi se non sei perfetto, se sei a cavallo tra il 9 e lo 0, comincia a fare 9-0, 9-0, 9-0, allora bisogna muovere il clarifiere appena avanti, perché qui non ha apparecchio omologato, poco serve il frequenzimetro. Naturalmente è staccabile, questi 3009 rispetto a quelli di vecchi hanno una presa a 6 poli dietro, no? Orizzontali, li metti questo frequenzimetro con quell'attacco lì, capito? E lavora però proprio nel va, diciamo si collega al cuore dell'apparato, capito? Quindi ti fa vedere la reale frequenza in ricezione e anche in trasmissione. Ma quando c'è caldo se io no che la sta io l'ho attaccato e chi c'è stata tutto quanto a sopra dice, boh. Allora ho mollato il PL ho provato a scaricarlo se c'erano scariche poi l'ho riattaccato col cacciavite l'ho fatto scaricare l'ho riattaccato ed è sempre 1,9 2 di stazionare quelle ce le ho sempre. Ma tu che antenna verticale hai? Che non me lo ricordo. Io ho la Mantova 5, anzi la via pure accorciata, quella Mantova lì perché era un po' messa male, ma già funziona bene. E come mai queste stazionarie? Forse come lei accorciate è uscita fuori accordo, boh. No, funzionava bene, poi ho spostato il cavetto dall'altra parte, così rimane, non si vede niente, impacciata fuori, perché ho fatto un buco dalla cucina alla finestra del pianerottolo, traversale, angolare, no? E dunque passa nel bordo del cornicione del tetto e lo infilo dentro l'angolo della finestra del pianerottolo. E mi viene fuori dall'angolo di cucina sopra il pilcine di dove c'ho l'avvento. Però il filo era corto, arriva solo sino al pensile, gli ho messo un bussolotto con un'aggiunzione, uno spezzone di filo, capito? E mi ha creato questa stazionaria. Magari un po' lo fa. Un po' lo fa. Oh, yeah. Ma quando è... Sento zocco di capsula, come mai? Qualcosa si è mosso qua? Mia, senti, non si deve muovere la capsula, deve essere che si è mollato qualcosa. Adesso devo aprire il microfono e fermarla. Si sono rallentata qualche vite, guardalo. Sì, perché se balla, secondo me come lo muovi. Sì, si è mollato qualche cosa qua. Ehi, perché ne ha presi di colpi in questo microfono? Ogni tanto mi cade da qui, sbatte, sì, rimane appeso, perché è attaccato al barchino, ma qualche colpettino lo prende. E vabbè, se no già c'è nuovo, se si sfascia qualcosa, questo è il Lafayette DMC507 ed è un microfono normale che però è sempre andato bene, ha una modulazione bella aperta, è anche migliore del microfono originale dell'apparato. No, io sto usando il 7009. Ah, il CRT 7009. Sì, sempre quello sto usando, gli altri li ho tutti ritirati, li ho conservati, ho lasciato lo Zodiac fuori e questo, gli altri li ho tutti pigliati da cammino, scatolati e conservati. Troppo in giro ne avevo, mi dà fastidio, anzi so che va a pigliare il burlo Zodiac e mi lascio solo questo. E quello è il PMR, è buff. Ehi, io l'ho usato l'altro giorno, però mi stava segnando lo Smither, no, che è digitale, mi stava segnando segnali bassi. Cioè, anziché 9.15, 9.20, come arriva Giulio, come arrivavano tutti gli altri, mi segnava Santiago 9 massimo. Ho detto, papà, a lasciare ferma la roba, oppure, vabbè, io ho il PL messo male, ogni tanto fa contatto, non fa contatto, mi abbasso di segnale, capito? Lo devo rifare bene, perché, mi è uscito male. Mi trovo meglio con i cavi sottili, io, lo sai. Mi trovo molto meglio con l'RG58, con l'H155, però col 213 mi trovo abbastanza male. No, io il capo grosso ne l'avevo levato da mezzo ai piedi, ce l'ho in garage, dentro un armadietto, poi avevo anche un altro spezzone, però era troppo grosso, era rigido. No, c'è quello sottile adesso, molto flessibile, però ce l'ho comprato, lo devo cambiare. E quello che ho è migliore ancora, perché è sottile, color marrone. E fine fine, ne ho 30 metri. E adesso appena una giugana mi salgo il PL, ho anche il PL in maschilizze. Salgo su, molto quello che c'è, tutto quello là, lo iso e me ne scendo quello, me lo metto più lungo il filo e poi è tutto unico, capito? Perché questo è uno spezzone e mi fa questo problema, vedi? Adesso è un 8, un 9, un 6, un 6 adesso, invece avevi un vedi? 1.8, 1.6, 1.9, certe volte è 2, perché è dallo spessore, perché perché il capo dopo era prima, arrivava giusto ed era unico e non aveva niente stazionale. Invece con questo stazione che ho aggiunto per arrivare qui mi crea queste stazionali. Eppure faccio quelli con lo stazione, però me ne credo. Cioè, tutto rosso. Basta fare come ho fatto io. Siamo saliti, abbiamo messo, cambiato il cavo, tutto tranquillo, stazionale, non c'è nessuno. Ehi, c'era qualcuno sotto che chiamava, mi sembra tu Giulio. Sai, mi pongo 10 minuti, la mulla che tu guida, vita lì tu, scenderlo lì dopo la finestra, con la stazione, qua a fare, noi vivo a fare, magari era un tempo. L'altro giorno mi ha piazzato un'altra fiammoletta, la presa di corrente, e ci ho messo due interruttori, ci ho messo. Poi immagino bianchinando piano piano la cameretta, i vicini, e pare così e viene sempre di qua. Adesso devo mettere un'altra presa murata nel salone dalla parte verso la finestra, perché da quella parte lì non ne ho, se no mi devo cacciare un pezzo di brunga e dalla presa arrivi a Giosaida, invece ci metto una presa e bu. Aspettate un attimo, chi è sotto che chiama? È Giulio? Buonasera a tutti, ciao Marco, ciao Graziano, per l'ennesima volta, poc'anzi sei sparito, voi non ti sei più visto, non ti sei fatto più intendì. Allora mi sono staccato e ho chiuso, adesso sono ritornato qua. Ciao Giammarì, riprendi. Ok, buonasera Giulio. Me lo stavo dicendo, Graziano. Pagli si era attaccata al telefono con la sorella, che c'era mezz'ora. È chiaro, ho detto Graziano, ci stai mezz'ora che sta al telefono, grazie. Rimane lì il palazzo, allora si è attaccato Giulio e ha fatto bene. Comunque ben ritornato qua, vai, buonasera, ben sentito. Vai Graziano. Ma gliel'avevo detto che stava andando al telefono, Giulio, è fatto bene che hai sarrato, non lo sai come ci sono, gli iadini, non mi mullava più, boh, già lo sai come ci sono, mezz'oretta, la bimbo io, e cercavo sempre il modo di chiudere il discorso, e da sempre va vedendo, un motto picco Maria. Una matrasca. E ero un po' di forti e alla fine non ce l'ho fatta più, le tese per andare in bagno. Tu devi qui, c'è anche la comunicazione. No, ci mancherebbe altro, grazie. Hai fatto bene, figurati. Va bene, dai. Avanti, Marco. Eia, allora anche per Giulio volevo dire che ho visto la rottura dello smartphone, non posso usare più il numero storico per WhatsApp, devo usare un altro numero per navigare, perché purtroppo l'altro smartphone è monosim. È monosim, non posso mettere il numero solito, posso mettere solo la scheda per navigare, quindi ti contatterò io, ti invierò un file a caso, tanto per metterti nella lista della chat, capito? Lo sto facendo piano piano, perché di notte qualche nome l'ho copiato, ma erano le 3 di notte, era tardi e dovevo dormire. È un pasticcio questi smartphone, te ne immagini? Era in carica di notte, a un certo punto alle 7:15 mi sveglio e sento questa musichetta, no? Dell'avvio. Praticamente si accendeva, si spegneva e si riavviava all'infinito, all'infinito. Capito? È morto, morto. Meno male che ne avevo due, perché uno era il mio, quello che ho adesso, l'altro era di mamma, però non riuscivo a usarlo, perché lì smartphone non riesce a usarli. E allora per vederlo buttato, l'ho lasciato mesi buttato e l'avevo preso io. Però il bello è che quello era dual sim, aveva due sim, e questa ne ha una sola, e quindi mi devo adeguare, dai. Ok Marco, ma uno è sufficiente, già va bene lo stesso, problema non ce ne sono. No, io mi sono formato il gruppo baracchino, no? Cioè, in poche parole, cosa succede? Se io mando uno, naturalmente a mio piacimento, se lo voglio io è ovvio, no, non è che... Se io mando uno, per dire, un messaggio a te, sono sul canale 23, ecco, a questo punto ricevi tu e posso ricevere anche tutti gli amici che io soprannomino in questo gruppo, capito? Contemporaneamente. Infatti stavo pensando, ma poi se è il caso metterò tutti i nomi che interessano e dopodiché così almeno sarà anche più facile, anziché stare ore in attesa così davanti al baracchino che entra qualcuno, poi sapendo che sono nell'ascolto può darsi che qualcuno si affaccia, capito Marco? Eia, ma te ne dico una io adesso, in realtà io WhatsApp l'ho messo solo per scambiare file con quelli del baracchino, mi. Non c'ho nessun contatto al di fuori della 27 per WhatsApp, voglio che sia una cosa a circolo chiuso, capito? Anzi ti dirò che molti numeri vecchi che avevo sul vecchio numero li cancellerò perché sono persone che non interessano più, sono persone al di fuori della 27 e francamente li devo cancellare. Ah, pensa, sono tornato indietro, praticamente per quel vecchio numero che è solo GSM, no, solo per telefonare, quel numero che c'avevi tu, ho comprato un cellularino Nokia a tasti, come quelli di una volta, così almeno quel numero lo uso solo per telefonare, e invece l'altra, lo smartphone lo uso per navigare e anche telefonare. Ok, e così va bene ugualmente. No, io mi sono formato un gruppo famiglia, ad esempio, no? Se voglio mandare un messaggio a mia moglie, per dire, no? Contemporaneamente riceve anche, allo stesso istante, lo riceve anche mia figlia, senza che io lo faccia anche per me, così. È un po' il gruppo fratelli. E appunto stavo pensando anche al gruppo baracchino, come per dire, io sono sintonizzato sul canale 10, io sono sintonizzato sul canale 23. Ecco, schiaccio e il messaggio contemporaneamente arriva a tutti, in modo che se c'è qualcuno che ha qualche dubbio, magari che sapendo che in frequenza non c'è nessuno e magari non accende, allora così potrebbe venirgli anche la voglia di accendere il baracchino. Stavo pensando a quello, capito Marco? Il gruppo l'ho già formato, però ancora non ho messo il nome degli amici, non l'ho ancora messo, capito? Però, vabbè, però poi indipendentemente da quello, se li voglio contattare questi amici singolarmente, è chiaro che gli faccio la telefonata sempre su WhatsApp singolarmente, capito? Non la telefonata, vi mando il messaggio. Va bene, mi sono spiegato, avanti, grazie. No, io mi lascio comparato il numero di telefono. Questa qua è più grande, c'è più memoria, sa più cose, ed è bello, e funziona benissimo. L'altro l'ho regalato a mia moglie, e il cazzo lo sta usando lì. Eia, poi Giulio, quando, siccome il mio smartphone, aspetta, non vorrei parlare assieme a qualcuno. Ok, siccome il mio smartphone è di 3 anni fa, e in realtà è uscito 4 anni fa, questo che mi è rimasto è pur sempre obsoleto, ha solo 1 giga di RAM, ha solo 4 giga di memoria, quindi nonostante l'espansione con la scheda SD, quello tempo un anno non potrò più scaricare nuove applicazioni, capite? È obsoleto. Purtroppo in 3-4 anni gli smartphone diventano vecchi, ho notato. Quindi io penso a Natale o dopo Natale, mi regalerò uno smartphone nuovo, mi conserverò i soldi e lo prenderò ovviamente dual sim in modo da ripristinare il numero vecchio per WhatsApp, capito? Ok, ma sai cosa ti dico, Marco? Anche con 4 giga, a voglia se navighi, a lungo anche, non ti credo che lo consumi così. Io va bene, in questo momento ne ho 7 perché avevo cambiato il gestore, avevo cambiato, sono passato, adesso ne ho 7 giga nel telefonino di memoria, no? Ma prima che ne avevo 4, per anni e anni, ho navigato lo stesso, sempre con 4 giga, e non mi ha mai lasciato a piedi, per dirtene una, no? Per cui non credere che la consumi così facilmente, la memoria. Capito, oh, Marco? Dopo mi risponde, dai, facciamo venire avanti Gio Maria, avanti Gio Maria. Ok, ma io non è che lo so maneggiare a fare tante di quelle cose, magari che può fare Marco, oppure i miei figli, no. Beh, io basta telefonare, sono riuscito anche a mandare cose sullo WhatsApp, che prima non riuscivo, fino al mese scorso non riuscivo a mandare messaggi, mentre che adesso invece ricevo e li mando. A cancellare le foto che si mandano non riesco, però non posso fare altro, andare a figare, non ci riesco, Marco. Ehi, vabbè, poi questione d'abitudine. Purtroppo Giulio, allora ti spiego, Android lavora, la memoria di gestita Android funziona praticamente in un modo abbastanza aberrante, cioè nonostante io abbia spazio sulla memoria fissa, no, come se fosse un hard disk, poi c'ho la scheda SD di espansione quasi vuota perché ho tolto le foto, le trasferite sull'hard disk esterno, no, foto, video, tutto tolto. Nonostante ciò vado ad aggiornare Google Chrome, no, il programma per navigare su internet, nonostante tutto lo spazio libero mi compare sempre la scritta spazio di archiviazione insufficiente, eppure gli ho cancellato la cache di memoria, gli ho cancellato tutta quella mondezza di foto e video, ho usato un programma per cancellare anche vecchi file di sistema, vecchie applicazioni che lasciano dei file così senza funzionare, niente, non me la fa aggiornare, spazio di archiviazione insufficiente. Ecco perché quello che prenderò io avrà 4 giga di RAM e 64 giga di memoria fissa, in più lo puoi espandere con la micro SD, capito? Purtroppo è così, ha una gestione della memoria strana, ho seguito tutti i consigli che c'erano su internet, però è così e boh. E bisogna arrendersi, va bene. Vai Graziano. Vabbè ragazzi, io chiudo là, che è arrivata mia moglie, devo fare cosa. Ce la sentiamo alla prossima. Ciao Giulio, ciao Marco, ciao Gio Maria, ciao chi è in ascolto. A domani se coincide, ciao. Ok, ciao Graziano, ci sentiamo a domani. Grazie per la chiacchieratina, alle prossime. Sì, ho capito Marco, dai, prima facciamo salutare a Graziano anche da Gio Maria, lo saluti anche tu e dopo continuiamo il discorso. Avanti Gio Maria. Ok, ciao, grazie, ciao, saluto Riccardo, alle prossime, vai Marco. Ciao Graziano, buona serata, buon tutto, dai, ci sentiamo alle prossime. C'è una gestione della memoria un po' aberrante, in realtà ho letto da qualche parte, no? Che ci sarebbe un grosso file di sistema, no? Praticamente che segna da quando lo compri tutto quello che fai, tutto quello che apri, tutto quello che guardi, capito? Però questo file di sistema non può essere cancellato da un normale smartphone, allora per cancellarlo devi fare il ROT del dispositivo, che è una procedura molto delicata, che può essere anche pericolosa, perché se sbagli poco praticamente ci butti lo smartphone, capito? Diventa un mattone, se sbagli poco è rovinato, è da buttare. Però quando uno fa questo, si dice a rotare, no? Quando tu hai i permessi di root su questo smartphone puoi cancellare questo famoso file gigantesco, che poi è quello che tu non lo vedi quando con normale smartphone, non lo vedi questo file, non lo puoi cancellare, lo puoi cancellare solo in quella modalità, però è una cosa, te l'ho detto, estremamente delicata, in più se il telefono è in garanzia ti fa perdere anche la garanzia, quindi è una cosa troppo, diciamo, è una cosa per smanettoni, capito? Io sono un utente medio, non voglio saperne niente di chip, di rottare, di flashare ROM, non ne so niente, non ne voglio sapere niente. Sì, no, ma io, guarda, non ti credo, io lo stesso sono un tipo che ci gioco, ad esempio, vabbè, io ho anche internet sul telefonino, non so se tu ce l'hai, per dire, no? E dunque tutti i santissimi giorni leggo il giornale, la roba Sardegna, e il Corriere dello Sport, Tutto Sport e la Gazzetta dello Sport, tutti i santissimi giorni. Poi naturalmente li cancello quelle notizie lì, no? Guardo anche i necrologi, per dire, no? Tutte queste cose qua, io anziché comprare il giornale, lo leggo su internet, lo leggo sempre tramite il telefonino. Poi io ho installato anche la radio, la playlist, qualsiasi radio, così, anche a voce viva, senza l'auricolare, per cui poi ho Pinterest, ho YouTube, tutto installato, ma da anni queste cose qua che io li sto usando. Eppure devo dire che anche quando avevo solo 4 giga, la memoria non mi ha mai abbandonato, la memoria del telefonino. Non so, Marco, perché poi se c'è una cosa, ad esempio, se ti mando io, per dire, non so, un messaggio fotografico o qualcosa del genere, è un microfono, un baracchino, qualsiasi cosa, tu te lo guardi e poi te lo cancelli, e dunque liberi anche, no? E non te lo tenere in galleria. Se te lo tieni in galleria è ovvio che poi a un certo momento non ti ritrovi 10.000 foto e non c'è più spazio. Ecco com'è la storia. Vai, Giovanni. Come sto facendo io. A me mi stanno caricando tutti i giorni le file, me ne mandano una starata, ma so che mezz'ora cancellati, so così. Infatti, quando me la mandano, no, per la sera fine me li cancella una a una, capito? Prima non riuscivo, adesso se riesco e me li cancello tutti quanti, così che sono sempre libero. Capito? Vai, Marco. Marco? Qui scusate un attimino, che ho preso una cosa un attimino. Purtroppo lo smartphone ce l'ho in carica, perché sono stato tutto il giorno a guardare video e quindi si è scaricata la batteria. Sai cos'è di bello il telefonino a tasti, Giulio? Quello che usi solo per telefonare, che la batteria ti dura giorni e giorni e giorni. Invece lo smartphone è un mangia batteria, poi più lo tiene acceso lo schermo più consuma. Aspetta che hanno suonato. Ok, riprendo io. Sì, Giovanni, io faccio così, quando mi mandano un video di qualsiasi natura, poi lo guardo, se c'è qualcosa da leggere leggo, e poi lo cancello, però non è che posso tenerlo sempre fisso, ci mancherebbe altro. Per dirti, no, adesso che in questi giorni io ero ricoverato per 15 giorni e oltre lì all'ospedale, tutte le notti, dalle 9 fino a mezzanotte, anche l'una, non facevo altro che chattare con mia moglie continuamente, perché parlare non potevo parlare, l'ospedale a quell'ora devi spegnere la luce perché disturberei tutti quanti gli altri pazienti. Allora io chattavo proprio con suo staff, Giorgio Marì, e ma stavo anche 2 ore, 3 ore, e vedi che ne ho consumato di memoria. Ma dopo, alla fine, l'indomani, tutto quello che avevo chattato da notte li cancellavo, li potevo cancellare anche tutti una volta, volendo, per dire, no? E poi la notte di nuovo lo prendevo e così via, capito, Giorgio Marì? Ma che io faccio così? Ma che io faccio così? Io la sera, magari più tardi, mi deve le cancelli. No, li segnano, non lo spegno, è sempre attento. Però me li cancello tutti, in modo che tanto lo so che lì domani fanno la stessa cosa. Ma tutti, se mi ne mandano un bel di cose, ragazzi, ma sto sempre cancellando. Perché dopo, a un certo punto, il telefono si funziona male se tu non li cancelli, capito? Così che infatti, un cancello bisogna cancellare, il telefono è sempre perfetto. Beh certo, anche perché cosa me ne faccio di lasciare tutte queste cose, se poi adesso già le ho già lette e ci siamo già contattati con la persona dell'altra parte, non c'è il motivo di tenere tutto. È chiaro che così la memoria si esaurisce, ma se tu la cancelli poi non si esaurisce così facilmente, no? Cazzo sia. Per cui faccio sempre così io. Però Marco, sei rientrato? È passata mia zia a lasciarmi due cose che avevo dimenticato. Adesso ho acceso per la prima volta questo telefonino a tasti, sto guardando com'è. Ah, naturalmente è un Nokia, però in realtà non è più un Nokia. adesso la produce una ditta cinese chiamata H, com'era? Capito, produce per Nokia, alla fine non è un Nokia autentico, mi Nokia vero era fatto in altre sedi. Tu pensa che l'ultimo telefonino che io ho avuto è quello di mia madre, buonale, ma che è morta alcuni mesi fa, e il telefonino ce l'ho io, il telefonino di mia madre, e quello è il telefonino per i vecchi, per così dire, per gli anziani, no? Perché lei aveva questo telefonino e aveva dei numeri registrati, no? Dei figli, eccetera, e senza bisogno di informare il numero, dietro in questo telefonino c'è un pulsante, schiacci quello, schiacci e partiva la telefonata per uno dei figli, per dire, capito Marco? Era nato, fatto apposta proprio per persone anziane che hanno delle difficoltà, e mia madre aveva 95 anni, per cui immaginate un po' se durante la notte si sentiva male, perché lei viveva sempre da sola, non ha voluto mai compagnia, era guarda, una donna così testarda, non ha voluto mai compagnia. Noi tutti ci siamo offerti, niente da fare, tutte voi dice siete sposati e dovete stare con la vostra famiglia. E lei, quando aveva necessità, bastava che schiacciasse questo pulsante che c'è dietro in questo telefonino e partiva un numero di una figlia o di un'altra figlia. E così sapevamo che mia madre aveva necessità di essere accudita. Capito Marco? Me lo ricordo, anche mamma ne ha avuto qualcuno, però ma sai quanti ne ha distrutti di telefoni mamma? Soprattutto prendeva quei brondi con i tasti grandi, no? E potevi impostare il tasto predefinito per la chiamata, cioè lì prendeva solo il tasto e inviava, no? Ma ne ha sfasciati un bel, non ha cura per queste cose elettroniche. Oppure ce l'aveva appeso al collo con un cordino, magari si piegava nella bacinella dove stava lavando qualcosa e immergeva il telefono. Ma ne ha sfasciati un bel, ma un bel ne ha sfasciati. Purtroppo non. Così è. Tu pensa che ne ho uno io, per così dire, ti ricordi quando dicevamo, è la cabina telefonica che stai usando con il telefono? Io ne ho uno che ce l'ho oltre 25 anni, che è stato uno dei primissimi telefoni che io ho avuto, perché me l'aveva regalato mio figliuccio, cioè era successo così, io avevo cresimato un figliuccio, gli avevo fatto un regalo, un orologio d'oro, gli avevo regalato un orologio d'oro, che c'era sempre, e loro come bomboniera mi hanno regalato il telefono, quello grande a tasti, di una volta, ma è 25 anni, forse anche di più questa storia, ce l'ho sempre, ce l'ho, ma ne ho in tutto telefonini, io ne ho 10-12 come minimo, per cui non ci sono problemi, ma cosa succede? Che tutte le volte che si cambia il telefonino mia figlia, quello lo passa a me, lo passano e così via, dunque io ho sempre il telefonino sempre aggiornato, perché lì ogni poco tempo, anche da poco, in questo compleanno di questo mese, di mese scorso, luglio, ha voluto il telefonino, no? Dunque gli abbiamo regalato un telefonino super tecnologico, poi lei lo passa a me l'altro telefono, che era sempre molto all'avanguardia, lo stesso, capito? Avanti Gio Maria. Ok, io devo scappare, dai, chiudo. Questa gente per cui ne approfittare. Ciao Gio, grazie anche che la saluto di casa e altrettanto a Marco. Riprendi Marco, dai, chiudo. Aspettiamo domani se Dio vuole. Ok, ma riprendi. Ehi Gio Maria, dai. Ci sentiamo? Ci sentiamo domani, sono le 8:20 passate, caspita. E anche oggi è volata la giornata, stamattina un po' mi sono staccato con il caldo e poi il pomeriggio volevo fare chissà che cosa, volevo andare anche a trovare Pomponi, ci eravamo bevuti qualcosa al bar e invece non mi sono un po' addormentato, ero stanco, dai, mi ha affiaccato molto il caldo, mi ha affiaccato molto, dai Gio Maria, già ci sentiamo domani, dopodomani, ok? Ciao, buona serata. Ciao Gio Maria, alla prossima, grazie a te per la chiacchierata, dai, a domani, ci sentiamo. Capito Marco, a me invece a mio compleanno mi avevo regalato un nuovo tablet, nonostante che ne avevo già uno, però questo di adesso è più moderno e dunque, sai, si sa, queste apparecchiature sono sempre più moderne, sempre più all'avanguardia e allora piace cambiare continuamente. E infatti poc'anzi ho poco lasciato il baracchino che ero in attesa di sentire Graziano, allora quello ho fatto, lo spento e mi sono attaccato al tablet e mi stavo giocando con quello, che poi in realtà è come il computer, non cambia niente. Una bellissima immagine dell'inquadrato, stavo guardando, ho guardato tutti i vari amatori di Sassari, tutte le fotografie ci sono, addirittura anche gli indirizzi di casa dove abitano, la stazione di Vante l'ho vista in lungo e largo, proprio bella, veramente bella, tutti quanti gli amatori di Sassari, anche di quello di Alghero, anche di fuori, qualcuno di fuori ho visto, tutti quelli che sono dell'associazione Ari di Sassari, capito Marco? E li ho guardati tutti, e di tutti c'è anche l'indirizzo di casa, ho preso un po', e poi cosa ho fatto? Ho scritto la via di certe persone e mi sono guardato l'antenna tramite la carta topografica. Insomma, io giro, io lo uso, la verità. Comunque è stata una grande differenza dai cellulari, adesso stavo pensando, io ho avuto, aspetta, prima di cambiare, cosa ho avuto io prima dello smartphone? Io avevo un Nokia N95 mi pare, o N70, e praticamente internet non ce n'era, o meglio, c'era forse una piccola sorta di navigazione, ma i costi erano elevatissimi, non... potevi leggere solo il testo, roba del genere, no? Poi da quando sono usciti, cioè da quando io ho preso lo smartphone, che l'ho preso in ritardo proprio perché si era rotto l'altro, poi una cosa, io cambio il telefono solo quando si sfascia, finché non si sfascia o proprio non funziona più, allora non lo cambio. Invece c'è gente che questi smartphone costosi anche li cambia ogni 3 mesi, ogni 3-4 mesi prendendo il modello nuovo, ma deve essere che abbiano molti soldi. Purtroppo il consumismo sicuramente è arrivato a dei livelli altissimi, non ci sono dubbi, infatti a volte non è proprio il caso, però siamo fatti così, se uno ha le possibilità, i soldi ce li ha e li spende e si toglie gli sfitti che gli saltano a mente, capito? Io ripeto, anche col telefonino lo stesso, io uso anche il navigatore per dire devo andare fuori, così metto l'indirizzo della località dove mi devo recare e quello mi porta sino al posto senza nessuno, nemmeno un metro di errore. Mi dice avessi arrivato per dire il numero tot di via eccetera eccetera, per dire, e poi è parlante anche, no? È parlante perché ti indirizza, gira a destra, gira a sinistra, vai 500 metri, gira a sinistra, vai più avanti 200 metri, gira a destra, tanto per dire, no? Tutte queste indicazioni te le dà, io queste cose me le tocco, tanto cosa chi se ne frega, cioè diciamo che già lo sfrutto io, dai, non ci sono problemi, se voglio mettere per dire tu mi dai l'indirizzo a casa tua, io metto l'indirizzo a casa tua e vedo dove abiti per dire, se vuoi l'antenna è a visione ottica dall'esterno, giro su e vedo anche la tua antenna, per dirti, ho capito Marco, tutte queste cose io le faccio, le guardo. Eia. Poi il bello che, sì, come hai detto tu, io non avendo un navigatore anche, non avendo il TomTom, lo uso come navigatore, siccome sono anche schiappa con le vie, non, io faccio sempre le solite vie obbligatemi, per andare a Protore faccio la sala 131 sempre al massimo, insomma, alla fine mi aiuta molto quello, quando non conosco una via, una località, metti il corso, segui le indicazioni e ti porta a destinazione, è una cosa molto molto utile, caspita, cioè non è più un telefono solo, fa di tutto e di più. Ma certo, ma se voglio sapere per dire un locale dove andare, un ristorante, una trattoria, una chiesa, tanto per dire di un paese, di una località, di qualsiasi posto, un bar, che so io, qualsiasi cosa, accendi e ce l'hai. Si tratta sempre di saperlo utilizzare. Se uno lo sa utilizzare, problemi non ne ha, ci mancherebbe. E il discorso è quello, oh Marco. Addirittura vuoi sapere, c'è un bar per dire nelle vicinanze di dove ti trovi, tu non conosci il paese dove ti trovi, e attacchi e te lo dice subito, te lo dice, no, queste cose qua sì, adesso che io ho anche il navigatore, mi serve quello, io ce l'ho tonto, ma a questo punto tutto sommato non l'ho più usato, uso il telefonino e va bene lo stesso, anzi ti dirò di più, il telefonino è anche più aggiornato ed è molto più preciso anche del tonton, perché il tonton secondo quanto tempo ce l'hai deve essere anche aggiornato. Tornando al discorso ad esempio Porto Torres, come hai citato tu poc'anzi, in certe vie ad esempio a Porto Torres mi sono trovato e non è aggiornato ancora, beh, perlomeno un tempo fa, fino a un paio d'anni fa, non era proprio aggiornata veramente la mappa di Porto Torres, infatti mi dava degli errori, mi dava. Per dire mi faceva passare in delle strade per dire dove avevano appena cambiato o il divieto di transito o un senso unico, no, capito? E me lo dava come del libro, invece no, c'era il divieto di accesso e non potevo entrare, capito? Ho considerato tutte queste cose, poi la curiosità, vediamo se è giusto quello che mi dice, era importante, guarda, veramente. Sì, rispetto ai telefoni di una volta, solo per proprio telefoni, è stata una rivoluzione, caspita. Ma tu immagina cosa ci sarà fra 20 o 30 anni. E io, sì, forse 20 o 30 anni, se ci arrivo lo vedrò, se ci arrivo, ma ormai sarò vecchio, cosa? Sono tecnologie per giovani, quelle future. Magari non ne capirò nulla. Ma non è vero, guarda, ti incuriosisce, a questo punto ti incuriosisce. Scusa un attimo, che rispondo io al telefono, si vede mia moglie è impegnata. Ah, ti stanno chiamando per andare a cena? Ah, forse sei al telefono, non ti hanno chiamato laggiù, no? Sono tornato, Marco. Ma ti avevano chiamato per mangiare oppure eri al telefono? No, stavano cercando mia moglie. C'era una persona qua che si aveva dimenticato gli occhiali, invece no, non ci sono. E dunque, mia moglie era impegnata e in quel momento non ho potuto rispondere dal telefono giù. E dunque io ho risposto qua dalla notte. Però poi sono dovuto scendere giù nella sala per vedere se c'erano questi occhiali, e occhiali non ce ne sono, pure ho passato il telefono a mia moglie e sta parlando con lei, capito? Figlia, mi sto barcamenando con il nuovo cellularino, è una cosa molto semplice proprio. Ah, ecco, qua c'è la rubrica. Sì. Quello proverò, c'ha tutti i numeri, sì. Interessante, dai. Poi ti mando la foto, dai, così ti arriverà il nuovo numero da segnare, dai, in attesa di fra qualche mese di ripristinare il vecchio. Ah, poi io mi sono munito, siccome avevo Wind, no? Praticamente avevo solo un giga di traffico, poi le telefonate le pagavo a caro prezzo, i messaggi lo stesso, no? Poi mi hanno aumentato da 5 euro al mese a 9 euro al mese, poi anche se mi hanno regalato 20 gigabit al mese di traffico, stava andando lento come il modem 56k, no? Quelli di tanti anni fa, del 2000. Allora, quella scheda l'ho messa da parte, ho comprato questa Iliad per uno e O-Mobile per l'altro. Adesso Iliad ce lo ferma e c'ho O-Mobile sullo smartphone. O-Mobile, che è un operatore virtuale di Vodafone, praticamente funziona sui ponti Vodafone. Scusa, sì, no, anch'io avevo Wind, avevo incominciato con 6 euro, pagavo 6 euro, poi alla fine sono diventati 15, e quando mi ha rotto le scatole, allora sono andato e l'ho eliminato, quindi io non ce l'ho più, e sono passato a Poste Mobili, e pago 10 euro al mese, pagamento trimestrale, e cioè 30 euro, e così almeno non ho nemmeno il disturbo di tutti i mesi di fare la ricarica. Qua lo faccio, la ricarica ogni 3 mesi e per 3 mesi sono tranquillo, sicché non mi ritrovo sempre con col telefono carico e posso utilizzare tutto, compreso internet, per dire, no? Mentre l'altro, perché ne ho 2 io, telefoni attivi, se lo ripeto ne avrò 10, 12 in tutto conservati, e perché l'altro è Vodafone, anche Vodafone mi pagava i soldi, facevo la ricarica e mi sparivano tutte le domeniche, mi sparivano 2 euro, mi sparivano dalla scheda. Perché? Perché per loro comunità mi avevano incluso il discorso che io la domenica potevo fare qualsiasi chiamata, anche capo al mondo, che non avrebbero non avrebbe contato niente di consumo, capito? Ma io, chi ve l'ha detto a voi di fare questo tipo di cosa? Allora ho protestato e me l'hanno tolto. Adesso io sono tranquillo, no? Se no non avrei più ricaricato Wind, cioè il Vodafone, anche quello avrei cambiato a Poste Mobili. Quello lo tengo perché ci sono tutti i numeri di tutte le persone di tanti anni, capito? E anche tanti amici, eccetera. E lo uso praticamente come ricezione, basta, per quando mi telefonano quasi sempre in quel telefono lì. Mentre invece l'altro che non consumo la scheda perché è trimestrale, quello lì lo uso per telefonare, mentre invece quello buono io lo uso solo per ricevere. Tutto lì, raramente telefono, ma proprio in caso di necessità, proprio se per caso mi dimentico l'altro, allora c'ho quello in tasca e posso usare quello, capito Marco? Io ho approfittato prima di partire a Milano per l'operazione a prendere questa scheda in modo praticamente con Windows, ho detto c'avevo solo 1 giga e pagavo le telefonate a prezzo pieno, insomma adesso io con Iliad, che è un'azienda francese, pago 5,99 al mese, quindi 6 euro, e ho 30 gigabit al mese di traffico, internet, no, poi minuti illimitati, sms illimitati, cioè non pago più le telefonate, non pago più gli sms, e sono ben 30 gigabit contro 1 giga che avevo prima. Era un'offerta vecchia di 5 anni e lo stesso O-Mobile ti dà 30 gigabit, lo stesso, telefonate illimitate, sms limitati, con 1 euro in più, anziché 6 euro, 5,99, beh, anziché 6 euro, 7 euro, capito? Però non hai vincoli, non hai... È un bijou, puoi stare 24 ore a telefonare, 24 ore su 24, per dire. Sì, è una grande comunità anche quella, e anche il mio fratello se l'ha fatto da poco, quello paga 6 euro, infatti, 6 euro al mese. Stavo dicendo, adesso, tornando al discorso dei giga, se sono sufficienti, eccetera, io con i miei 7 giga, e mia moglie che ne ha 4 giga nel suo telefonino, in quei giorni che io ero all'ospedale, per oltre 15 giorni eccetera, oltre 15, forse 20, vabbè, comunque, tutte le notti, quando me ne andavo a letto, perché se sai l'ospedale, sai, ci sono pazienti, non è che puoi parlarci direttamente a voce così, allora cosa facevo? Utilizzavo WhatsApp, utilizzavo, ma stavo dalle 9 di notte, dalle 9 di sera, fino a mezzanotte anche l'una del mattino sono riuscito ad arrivare, sempre chattando con mia moglie tramite WhatsApp, per dirti, no, se che a voi se ne ho consumato di giga, eppure nonostante tutto sono abbastanza sufficienti. Poi di domani mattina appena mi svegliavo, tanto mi svegliavano alle 5 lì, che arrivavano per misurare la temperatura, e allora mi prendevo il telefonino e cancellavo tutte le chat che avevo fatto la notte prima con mia moglie, capito? Sì, sono d'Italia, ti ascolto, tu ascolti Sassa di Sardegna, avanti. Scusa Giulio che devo andare in bagno che mi scappa purtroppo con questa storia dell'acqua che bevo, a un certo punto quasi non riesci a trattenerla, proprio ti viene uno stimolo più forte del normale. Un attimo Marco, che c'è tu d'Italia, mi sembra Milazzo che mi ha chiamato, attento l'amico Giulio da Sassari, non so, qual è la città tua, ho capito, Milazzo, confermi? Mi hai sentito anche da parte mia, per te? Sì, sono in compagnia di Marco, sempre qui da Sassari, adesso te lo mando avanti per i saluti, avanti Marco, per l'amico da Milazzo, mi sembra che ha detto, avanti Marco. Marco, ma Marco si è sentato, scusa, Marco si è sentato per l'altro, evidentemente gli ha squillato il telefono. Sì, ripetimi il tuo nominativo per cortesia, che non ho capito bene, dai, perché in quel momento c'è stata qualche altra portantina che si è sovrapposta. Avanti ancora, da Giulio da Sassari. Ah, ok, Aldo, sì, ok, sì, ho capito molto bene adesso, sì, anche se mi ha fatto lo streaming, ma l'avevo capito ugualmente anche prima, nel senso che prima che mi facessi tu lo streaming. Sì, arrivi molto bene qua, la radio è abbastanza buona, solo naturalmente si sa, c'è sempre il fruscio della propagazione, quello non manca mai, quando c'è la propagazione è sempre un problema, a volte si riesce ad ascoltarsi veramente bene, ma la maggior parte delle volte c'è sempre un leggero fruscio. Il segnale è buono, alto, abbastanza, e la radio è ultima, chiara, bella, pulita, limpida. Riprendi Aldo. È ok Aldo, e tu l'antenna ce l'hai orizzontale e ti sento ugualmente, penso un po'. Però io che ce l'ho autocostruita, è molto bassa anche, molto bassa, a livello di terrazzo a casa. La casa non è che sia molto alta, per cui va bene così. Un'antenna autocostruita, perché in realtà non è altro che il prototipo della Game Master, è stata copiata, dai. Dal computer ho compiato le misure, ho copiato e ho comprato una canna da pesca lunga 7 metri, l'ho autocostruita e l'avevo messa nel terrazzo per restaurarla e grazie a Dio è già da più di un anno lì sempre lì, mi si è considerato che va ugualmente bene. Se no di solito la metto 5-6 metri più in alto, avevo la mantova tubo, anzi ce l'ho sempre, però non la sto utilizzando. Sto utilizzando la Game Master autocostruita. Avanti ancora Aldo. Ti copio meglio, no? ti copio ancora meglio. Ebbene, la polarità è quella che sto usando io, per cui va anche meglio. Sì, è aumentato anche il volume della radio, per cui adesso non so se dipende dalla propagazione, però ti sento molto molto bene, meglio di prima. Riprendi Aldo. Marco, ci sei? Sì, sto facendo la spola col bagno e io c'ho un po' di squelcia anche, non arriva, dai. Non arriva, vabbè, ma arrivi tu. Sai perché non arriva? Perché prima stavo facendo con l'antenna orizzontale, però adesso l'ha cambiata, l'ha messa in verticale, e dunque è più forte. Vediamo un po'. Aldo, ci sei? Non lo sento più. Si vede che è scesa la preparazione, o Marco. Perché non è costante la propagazione, purtroppo siamo ben lontani dal picco solare, lei dice che sarà forse un picco solare anche banale, mica poche macchie solari, invece più macchie solari ci sono, più propagazione c'è a fare, influisce sulla ionosfera, credo. Sì, beh certo, ma te rendi conto, con questo pezzo di filo così, caspita, autocostruito, che razza di bellezza di antenna che sono riuscito a fare, o Marco. Ripeto, te la potresti fare anche tu, mi Marco, tu apri il computer, guarda, ce l'hai il computer, ce l'hai, io lo so che ce l'hai. E tu lì, guardi, e c'è scritto, e scrivi sulla tastiera. Allora, aspetta com'era. Antenna Game Master spiegazione, tu devi scrivere antenna, no, anzi no, costruire antenna Game Master spiegazione, e ti dà tutti i dettagli con tutte le misure eccetera eccetera, e vanno bene alla grande. Eia. Sì, ma sì, in effetti io sono un po' fanatico, mi sono spiegato male. Sono più simpatizzante per l'alluminio, cioè mi piacciono antenne l'alluminio, non mi piacciono in vetroresina, canna da pesca sì, magari va bene, però mi piace l'alluminio, non lo so perché. Ah vabbè, scusa un attimo che è rientrato Aldo. Aldo, mi siete ancora? Aldo, non ti sento, Aldo, ti ho appena sentito poc'anzi, ma ci sei ancora? Troppo basso adesso sta arrivando Aldo, adesso non ti sento, è troppo basso veramente, sento che smoduli ma non capisco quello che dici. Adesso ti ho ascoltato di nuovo bene, sì. Sì, ti mando avanti Marco da Sassari, vediamo se lo ascolti. Lui non credo che non ti ascolta. Avanti Marco, provaci se ti sente l'amico Aldo. Con 4 watt, vediamo. Attenzione Aldo, Aldo mi copi, copi Marco da Sassari. Senti, Marco. Sì, sì. Sì, allora, la radio è buona, la radio è buona. C'è un po' di disturbi elettrici, però il tuo segnale varia da 5 a 7, da 5 a 7 radio, anche 4 ti do, la radio è buona. Me lo coprono. Sento io. Ok. Sì, allora Marco ha detto che lui arriva da 5 a 1, da 5 a 1, fa qualsiasi, no? Sì, dimmi per cortesia, mi segnalo io, com'è che arrivo? Appunto stavo segnalando, Arno, ma lo resta anche a te, che ho un'antenna autocostruita tipo Game Master, copiata dalla, con tutte le misure copiate dal computer, così, la canna da pesca in pratica, dai, e l'ho autocostruita, avanti Aldo. Ok Aldo, sì sì, anche tu mi arrivi con segnale così e con USB, arrivi anche a 9, di segnale arrivi anche a 9, la radio è 5 chiara, perfetta. Vabbè, sono contento, lo ripeto, stavo appunto spiegando poc'anzi, non so se mi avevi ascoltato prima, che io sto utilizzando un'antenna che l'ho voluta autocostruire ed è un dipolo in verticale del tipo Game Master e ne avevo tolto tutte le misure dal computer. Avevo tolto, ho fatto quelle misure esattamente e devo dire che è andata bene al primissimo colpo senza fare la minima regolazione, è andata benissimo per quanto riguarda le stazionarie e tutto, per cui da allora la sto utilizzando da oltre un anno ed è montata a livello di solaio di casa, diciamo, dai, perché ce l'ho nel terrazzo. E poi tra l'altro il terrazzo è chiusa questa antenna da tre mura attorno. E nel basso c'è un tubo alto 1,20 m, per cui ti puoi immaginare le condizioni non sono delle migliori. Se la dovessi mettere dove avevo la vantava turbo prima, che ce l'ho sempre tra l'altro, sarebbe più in alto di almeno 6 metri, sarebbe una cosa ancora migliore come emissione radio e anche di segnale. Avanti Aldo. Io ho scritto sulla tabella, sulla tastiera del computer, ho scritto costruzione, Game Master spiegazioni, capito? Ho scritto quelle cose lì e mi è venuta fuori tutta una parte dettagliata con le varie misure eccetera e devo dire che è riuscito al primo colpo, con pochissime lire, cioè con pochissime euro ho costruito un'antenna che va molto bene e sono convintissimo che se la metto dove c'era la mantova prima, che ripeto 6 metri più in alto, il segnale sarebbe ancora migliore e non avrebbe niente da invidiare alla mantova tubo, ne sono più che convinto, guarda, con la differenza che la mantova tubo perché l'ho tolta? Perché d'inverno la notte quando tira il fischiavo nei radiali e mi dava fastidio, allora l'ho tolta per quello e ho autocostruito questa Game Master autocostruita, capito? Ma sì, ti ascolto sempre, sì, stavo dicendo che c'è la bassa come antenna, se la metto 6 metri più alta non ha niente da invidiare alla mantova, guarda, ti posso garantire che non ha niente da invidiare alla mantova. Mi stai ascoltando? Sì, posso andare in banda laterale anche, Marco, andiamo in banda laterale. Questo è cuocuomane, lasciatelo perdere che è cuocuomane. Ciao Claudio, no, aspetta che andiamo in banda laterale. Un attimo, guardo, che devo qua manovrare un pochino, poi ti faccio sentire un altro amico, che quando ti arriverà sparato la bomba, un attimino, che qua accendo perché non ci vedo molto bene, se no, allora, la questione va meglio così, allora, vediamo un po', è questa, sì. Vado in banda laterale, guarda. Perfettamente, guarda. noi, se le frequenze loro sono tutti inesatti. E poi ti mando a dire che gli amici da rientro sono tanti corpi, questi per assassari. Avanti alto, hai copiato? Sulla manopolina delle quarze, per appunto sintonizzare. la seconda parte del passaggio. Dunque non ho capito esattamente cosa mi chiedevi. Se vuoi ripetere per cortesia, vai Aldo. Ricordati che sono entrato nell'84, eh. Va bene, l'84 adesso, sono passati dei begli anni, no? Dunque, collegamenti se ne fanno, no? Ti sembra, Marco? Vai, Marco! Purtroppo questi sono sporadici, proprio perché siamo ben lontani dal picco delle macchie solari, si chiama ciclo onde decennale dell'attività solare. E di solito quando sei nel picco massimo, la propagazione è molto molto più forte, perché influisce sulla ionosfera. Iono, sì, in HF ionosfera, in VU troposfera mi pare. Vabbè, ma ci sono dei giorni particolari che magari si arriva al primo strato, poi c'è il secondo, c'è il terzo e così via, ma non è sempre che si riesce ad arrivare alla luna quasi. E così è, Marco, vabbè dai, ci sono dei giorni, ripeto, sai, tu lo sai benissimo, che ci arrivano segnali anche da 9:30 qua, per dire, perché evidentemente allora in quei momenti la propagazione è proprio al massimo. Rimbalza bene, l'onda radio rimbalza bene. Avanti Aldo! Non ricordo il preciso periodo, però so che più aumentano le macchie solari più la propagazione migliora, capito? Anche adesso che siamo al minimo, diciamo, riusciamo a fare collegamenti abbastanza buoni, e dopo tutto pure con pochi watt, io ho 12 watt massimo di picco, come vedi. Però caspita, c'erano periodi che la propagazione era fortissima. Io mi ricordo nei primi anni 80, anche 90, c'erano momenti che la propagazione era anche eccessiva, ti dirò, perché c'era molta gente, quindi i segnali si ammassavano uno sull'altro. K. Un dipolo, un pezzo di filo, metà cavo quasiale e metà filo elettrico, tuo cuore. Aspetta che te lo faccio parlare, qua. Pantelleria. Sono buon, gay. Nacho. Sì, ti ho copiato, guarda, non ci sono problemi. C'è molto questo B, però ti ho copiato ugualmente. Aspetta che ti faccio un altro amico, sempre qui da Sassari. Avanti Claudio, saluta l'amico Aldo in Pantelleria. Buonasera Aldo, qua Claudio Sparviero dalla città di Sassari. Ben ascoltato 659 qua alla mia radio, appunto aspettavo il passaggio per salutarvi perché ero al telefono e poi vado a cenare. Ok Aldo, il microfono per te, vediamo un po' se mi ascolti. Ha trasmesso Claudio Sparviero da Sassari, cambio. Radio Super 5, Claudio Sparviero, l'uccello più rapace del mondo, cambio. QSL Aldo, molto bene, va bene, dai, vi lascio al vostro QSO allora, Io tornando con una verticale della PKW tribanda 10-15-20 sotto accordatore naturalmente, la radio L756 Pro 2 della ICOM, ok? Va bene, niente, giusto così per farti capire, sono un radioamatore quindi un po' di antenne ce li abbiamo, la posizione è ottima, ti ascolto magnificamente bene. Do il cambio a Marco, ciao Aldo, ben ascoltato, buon proseguo di serata, buon proseguo di QSO, saluto anche Giulio, saluto tutti quelli che sono qua sul canale 23, passo in QRT perché la cena è pronta, c'ho anche gente, come al solito. A te Marco, buona serata a tutti, ciao Aldo, grazie. Grazie per la chiacchieratina, dai, ci sentiamo alle prossime. Ti mando avanti Aldo per i saluti, avanti Aldo per salutare Claudio che sta chiudendo. Anch'io sono sulle vie di chiudere, d'accordo, saluto a ancora l'amico di Pantelleria semicopia ancora, e io sto usando la 5 ottavi di tipo modesto, un po' sottile e leggera, in modo da avere palo basso e niente tiranti, e in SSB 12 watt di picco picco K. Va bene, saluto anche Claudio, vabbè, già hai ricevuto la comunicazione, poi avvertirò Giulio anche del coso, del cambio di numero, così WhatsApp ritorna a funzionare, ok? Dai, un saluto a tutti, io adesso chiudo ma attacco la televisione, ok? Ciao, ciao, e vai Giulio. Ok, ripreso io allora per salutarti, ciao Marco, buona cena, dai, alle prossime, ci sentiamo. Saluto di nuovo Aldo, ciao Aldo, devo scendere per forza per la cena, dai, mi hanno già chiamato. Ciao Aldo, salutoni, grazie ancora per la chiacchierata, alle prossime, dai, ascolto il tuo finalino e dopodiché chiudo. Avanti Aldo, si è ascoltato. Calma, positivo, va bene, una buona serata a tutti e a Marco che ha chiuso qua la macchina. Ciao Marco. No, non ero io. Ok, ciao di nuovo Valdo, alle prossime, salutoni. Saluto anche l'amico che mi ha salutato, forse Marino. Ciao Marino, alle prossime, ci sentiamo. Dai, sto chiudendo, devo andare a cenare. Ciao Corrado, grazie ancora, ciao, chiudo. Ciao Giulio, buonasera, ciao anche Marco, ciao anche Claudio, ci sta ascoltando, buonasera anche per lui. Aldo, fai un controllo da stazza del cambio. Non sono Marco, Aldo, sono Marino sempre da stazza lì. Un controllo per cortesia, cambio. Ok, sì, allora mi arrivi un tenere di destra, una parte di cinque, solo che c'è, solo una parte di cinque. Spettacolare, ok? Hai potete tutto, cambio per te. Ok, grazie Aldo, grazie da stazza, ok, avanti Marco, cambio. C'è uno che chiama Aldo, avanti chi chiama Aldo, e Aldo è a Pantelleria. Che casino, bravo Marco, c'è un casotto, avanti. Ciao Marino, un salutone. A mangiare stai andando? No, alla TV, dai, sono stanco di modulare. Ok, ciao ciao, faccio un po' di ascolto. Continuate pure in questione, ascolta perfettamente il telegramma. Un saluto qua da Patrizio, ok, zona Cosenza. Ok, va bene. Fabrizio, io ti ascolto abbastanza bene, un 7-8, una radio 5 perfetto, ok. Io ti super saluto e faccio quello di causa carica. Ciao ciao Fabrizio, ciao.